I vini sono tutti uguali? Il vino, in Italia, è classificato in tre categorie. 1. Vini da tavola, i quali molte volte sono accompagnati da un'indicazione geografica tipica. 2. Vini di qualità, prodotti in una regione determinata. Possono essere vini DOC, vini a denominazione di origine controllata, o vini DOCG, vini a denominazione di origine controllata e garantita. 3. Vini speciali, che includono vini liquorosi o aromatizzati. La qualità di un vino con una denominazione di origine è normalmente superiore ad un semplice vino da tavola. Attualmente in Italia ci sono oltre 300 vini DOC e 20 DOCG. Tutte le regioni italiane hanno molto da offrire in questo campo e ogni tipo di vino ha delle caratteristiche particolari. Il vino è diventato un'attrazione turistica e sono organizzati dei viaggi alla scoperta di bellezze paesaggistiche, ma anche della buona cucina e del buon vino. Basta soggiornare in un agriturismo per godere il gusto tipico di un vino della zona, oppure andare in alberghi che si trovano in una zona rinomata ecologicamente, oppure sedersi alla tavola di un ristorante tipico che propone gli abbinamenti tra le pietanze tradizionali e le migliori selezioni di vini locali. Dalla Valle d'Aosta alla Sicilia, dal Piemonte alla Campania, dal Veneto alla Toscana, le strade del vino, viste nel loro insieme, toccano tutti i principali centri della cultura italiana.